I pesci e il pastore da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Con voci e con accordi che avrian commosso i sordi, Tirsi, l'amore della sua diletta unica annetta, in riva a un fiumicel, almo soggiorno d'ognauretta gentil, cantava un giorno. Annetta, intanto, in riva al fiumicello gettava lama ai pesci, ma costoro se n'ivan bel bello pei fatti loro. Credette a torto il bravo pastorello, col suon che avria commosso anche i leoni, di muovere i carpioni. Cantava il pastorello: o pesciolini dell'onda cittadini, usciti dalla liquida e profonda grotta ove stan le naiadi, a contemplar sull'onda un viso assai più bello, cantava il pastorello. Se voi verrete, non vi terrà costei dentro una rete, ma il lieto acquaio assai graziosamente vi nutrirà costei, che se a qualcun la sorte portasse anche la morte, o soave morire in man di lei, o morte ch'io dimando inutilmente. Non men che muti sono sordi i pesci, che fanno il nesci a questo eccitamento. Ebbe un bel predicar, Tirsi, la predica se la portava il vento. Allor tende la rete, e in un momento piena la vete, e pone i pesci della bella al piede. O voi, pastori d'uomini e non di pecorelle, che vi credete muovere la mente diversa della gente con le parole belle, voi consumate il fiato inutilmente. Assai meglio farete a usar la forza e a tendere la rete. Fine della favola I pesci e il pastore. Questa registrazione è di dominio pubblico.